Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dopo esserci occupati di Cina ieri, del sorpasso, oggi è presente la notizia su tutti i giornali, vi torneremo anche nei prossimi giorni. Dicevo, oggi le notizie riguardano soprattutto l'Italia. Perché? Perché da un lato si torna a parlare della cosiddetta gobba pensionistica, ossia del picco nell'erogazione delle pensioni. La crisi di fatto ha portato a un'anticipazione del raggiungimento di questa gobba. Ne parleremo perché, insomma, bisogna stare attenti a creare anche un eccessivo allarmismo. In sostanza, il picco della spesa previdenziale in rapporto al PIL viene anticipato non perché vadano in pensione, anzi, più persone rispetto alle attese, ma perché calando il PIL, essendo questo un rapporto, il 15% della spesa pensionistica sul PIL arriverà prima del previsto, quindi già quest'anno, e si sposta in avanti purtroppo il calo di questa proporzione, cioè tra quanto spendiamo per le pensioni quanto è il PIL complessivo del paese, di 10 anni, cioè invece che il 2050, ecco perché si chiama gobba, perché tutte le previsioni vedevano un aumento, un picco e poi una discesa, ecco la discesa dalla gobba arriverà più tardi, appunto non al 2050 ma nel 2060. Poi parleremo della lotta all'evasione fiscale, cercando anche di cogliere alcuni aspetti. Faceti no, perché non c'è niente di divertente in chi evade il fisco e non paga le tasse, quantomeno buffi, ecco, la fantasia degli italiani è incredibile. I controlli fatti dall'Agenzia delle Entrate negli stabilimenti balneari e in tutti gli esercizi commerciali del paese, proprio alla luce delle vacanze estive, hanno portato alla ribalta oggettivamente quella che è la principale dote del paese, cioè la fantasia nelle scuse. Scuse inverosimili, stabilimenti balneari che dichiarano di guadagnare più a ottobre-novembre rispetto a luglio-agosto. Ora è vero che non ci sono più le mezze stagioni, è vero che sta cambiando anche il meteo, però insomma guadagnare più a ottobre-novembre rispetto a luglio-agosto è duro per uno stabilimento balneare, e questo è solo l'inizio. Ne parleremo con chi sta dirigendo i controlli che vengono effettuati anche così con delle forme di mimesi interessanti, cioè si travestono da bagnanti gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate. E poi, come sempre, anche la borsa. Allora, oggi le borse sono tutte ben intonate, Milano non fa eccezione, più 1% Milano, più 1,5 Parigi, 1,5 anche Francoforte, e poi Londra più 1,1%, l'America più 1,1%. Che cosa è successo? È andata bene l'asta delle obbligazioni irlandesi. Vuol dire che la domanda è stata superiore all'offerta, che non ci sono state tensioni sui rendimenti che l'Irlanda ha dovuto offrire per farsi sottoscrivere parte del suo debito, tant'è che questo poi ha influenzato anche tutti i rendimenti delle altre obbligazioni dei paesi cosiddetti più a rischio, i PIGS, quindi Portogallo, Irlanda, Italia, alcuni infilano anche l'Italia e la Grecia. Ecco, sulla Grecia il caso è un po' diverso, ma insomma il mercato tiene, delle obbligazioni tiene, nessuna tensione su questo per quello che riguarda il collocamento irlandese, e questo ha di fatto ben intonato anche i mercati in assenza di grosse altre notizie sul fronte finanziario. L'euro è a quota 1,2882, dicevamo delle borse, dei titoli, molto bene Italcementi più 4,3%, Buzzi Unicem più 3,40%, ST Microelectronics più 2,70, Tenaris più 2,5, Prismian più 2,3, Lottomatica più 2,1 come Bulgari, e in pregilo il 2% lo guadagna Enel, l'1,90 lo guadagna Fiat ma anche Autogrill, e l'1,80 lo guadagna Finmeccanica. Fronte opposto, pochissimo, Fondiaria perde lo 0,44%, qui come già vi ha ricordato il nostro GR ci sono notizie che riguardano anche il gruppo di Ligresti, e meno 0,41% Luxottica. Prima di passare come sempre le notizie in breve, non mi resta che ricordare il numero per i vostri SMS: 349-238-6666. Partiamo come sempre dall'economia internazionale, il petrolio $75,90. Allora va detto che pur avendo e conoscendo oscillazioni dai 68, 70 agli 82, 83 dollari, il petrolio è una delle prime estati non dà preoccupazione, ossia resta su livelli relativamente alti ma non con tensioni. Torniamo a occuparci di Cina, perché da un lato oggi è arrivato anche il dato sugli investimenti diretti esteri a luglio in Cina, cioè gli investimenti che arrivano dall'estero sono aumentati di quasi il 30%, 7 miliardi di dollari solo nel mese di luglio. Questo a riprova della fiducia che hanno le varie società internazionali sull'economia cinese. E praticamente è il 12° mese consecutivo di rialzo degli investimenti esteri verso la Cina. Pensate che l'anno scorso la Cina ha attratto investimenti per 95 miliardi di dollari. Anche qui è al secondo posto a livello mondiale, al primo posto gli Stati Uniti con 130 miliardi, ma insomma vicinissima la Cina. E quindi fa piacere anche vedere che il gruppo assicurativo italiano Generali, il Leone di Trieste come viene chiamato in gergo, è il primo, e si è confermato, il primo gruppo assicurativo straniero in Cina. Ha raccolto a metà anno premi per 4 miliardi e 52 milioni di RMB, sono circa 460 milioni di euro. E praticamente il gruppo si chiama Generali China Life, ha già superato nei primi sei mesi del 2010 l'intera raccolta che aveva ottenuto nel 2009. E anche questo è un modo per diversificare per il gruppo Generali. Allora, vedo già dei messaggi sull'evasione fiscale, un attimo ancora, continuiamo con le notizie in breve. La Cina nel frattempo però ha tagliato la sua esposizione verso titoli di Stato americani. La Cina ha praticamente il 35, quasi 40% di tutto il debito americano è in mano cinese, però l'ha tagliato di molto, 21 miliardi di obbligazioni americane in meno. Restano comunque 839 miliardi di obbligazioni di debito americano in mano ai cinesi, ma appunto 21 miliardi in meno, un taglio senza precedenti, giustificato almeno ufficialmente dai bassissimi rendimenti dei bond americani. Ancora per quel volete sapere del Dry Index, il Baltic Dry Index. Non ci sono grossissimi movimenti, adesso poi lo ricorderemo, il Baltic Dry Index è un indice che misura il costo del noleggio dei cargo per trasportare tutto quello che non è petrolio, ecco perché si chiama dry, tutto quello che è secco, ed è un indice molto importante di quanto è ripartita l'attività economica. Praticamente a dicembre era tornato a 4.000 punti, a febbraio era sceso a 2006, a luglio è sceso a 1.700 punti, certo meglio del minimo storico che si era toccato nel dicembre 2008 a 660 punti, ma molto molto distante dai livelli a cui viaggiava questo indice prima dello scoppio della crisi, era quasi a 12.000 punti, adesso se va bene si avvicina ai 2.000. Per la precisione 2488 punti il livello dell'indice che misura il costo di, o meglio quanto costa noleggiare un cargo per trasportare merci. Chiaramente più riparte l'attività economica, più traffico c'è, più è caro il noleggio, come avviene anche in qualunque mercato, più basso è il traffico, meno domanda e meno esportazioni e importazioni ci sono, più basso è questo indice. Chiusa la parentesi sul Baltic Dry, andiamo avanti con il debito delle famiglie americane, che per fortuna si è ridotto nel secondo trimestre dell'anno dell'1,5% rispetto al primo trimestre, e comunque rispetto al picco di debito che si era registrato verso la fine del 2008 siamo a un meno 6,5%. La produzione industriale americana a luglio più 1%, E anche l'utilizzo degli impianti è aumentato rispetto a giugno, quindi continuano ad arrivare notizie. Molti di voi ci dicono, ci scrivono dicendo, ma insomma non si capisce se l'America sia o no in vera ripresa o rischio o no una seconda recessione. Purtroppo non si capisce, e qui mi arrendo anch'io, perché le notizie che arrivano sono delle volte contrastanti. Quello che possiamo dire per certo è che la ripresa non è di quelle, così, di quelle robuste, di quelle che entusiasmino. È una ripresa, alcuni dicono ripresina, altri dicono ripresa un po' più contenuta, un po' più sostenuta, insomma non è gran cosa. Però il fatto che oggi siano aumentati i prezzi alla produzione industriale negli Stati Uniti dovrebbe allontanare il rischio più grosso in questo momento per l'America, il rischio deflazione, cioè prezzi in calo, economia stagnante e banca centrale americana che non può, e governo americano che non può imbarcare ulteriore debito dopo aver salvato i grandi colossi bancari del paese. Sotto le attese invece l'indice sulle nuove costruzioni di casa negli Stati Uniti, vedete anche qui dati contrastanti. Buono però invece l'utile di Walmart. Walmart è la grandissima catena di magazzini che c'è in America. Infatti si dice un conto è Wall Street, un conto è Walmart, come dire Walmart rappresenta l'economia reale. Ebbene, ha fatto l'utile è salito a 3 miliardi e 600 milioni di dollari negli ultimi tre mesi, ma la cosa importante è che sono migliorate le stime sull'utile per l'intero 2010. E poi passiamo alla notizia che riguarda l'Europa e che ha ben intonato i mercati. L'Irlanda è riuscita a collocare sul mercato delle obbligazioni, dei BOT, o BTP, 500 milioni di euro di titoli di Stato con scadenza nel 2014 e 1 miliardo di BTP, li chiameremo noi, con scadenza nel 2020. In sostanza lo Stato irlandese è riuscito a vendere tutte le obbligazioni che si era prefissato di vendere grazie a offerte che sono state oltre 5 volte l'offerta, e questo è il buon dato, vuol dire che non c'è tensione sul mercato. Poi alcuni di voi obiettano che in realtà a comprare siano gli stessi stati europei o le banche centrali degli stati europei, vabbè, però l'importante è che non si creino tensioni sulle obbligazioni in questo momento. Tra l'altro per gli obbligazioni irlandesi con scadenza 2020 la domanda è stata di 2,5 volte, quindi buona anche su una scadenza così lunga, e quindi i rendimenti sono calati al 3,1%, sono calati soprattutto sulla scadenza 2020 dal 5,5% al 5,3%. Anche qui, se cala il rendimento di un'obbligazione vuol dire che si è abbastanza sicuri su quel debito. Più c'è incertezza su un debito, più lo Stato che emette obbligazioni deve aumentare i rendimenti per trovare sottoscrittori. E infatti anche la differenza tra quanto rendono le obbligazioni irlandesi e quanto rendono le obbligazioni tedesche, che sono il riferimento per tutta Europa, le più sicure, è diminuita, e questa è una buona notizia. Salite infatti i rendimenti leggermente delle obbligazioni tedesche, segnale anche questo che vi è stata una nuova fiducia, comunque l'andamento del collocamento irlandese ha dato nuova fiducia ai mercati sulla tenuta dei paesi cosiddetti periferici, appunto Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna e cioè chi ci mette anche l'Italia. Del fisco, vedo molti messaggi sul fisco, i furbetti del costumino, alcuni li hanno chiamati, vabbè. Li raccontiamo perché ci sono delle cose, ripeto, veramente, veramente incredibili. Locali da ballo in cui nulla era in regola, neanche l'agibilità, tutti quelli che vi lavoravano erano amici, anche le ragazze che ballavano sui cubi erano amiche, tutti gratis, insomma. Viene da ridere per non piangere. Però noi partiamo con la gobba. Una volta scrive un ascoltatore: la gobba portava fortuna. Questa è una di quelle gobbe che non porta fortuna. Si è avvicinata il picco della spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo e si è avvicinato, ripeto, non perché sia aumentata in maniera così determinante la spesa pensionistica, ma perché purtroppo è calato e di molto il PIL dopo la crisi del 2007-2008. 349-238-6666 per i vostri SMS. Il dato è del Tesoro ed è di oggi. La spesa arriverà, è stata di 234 miliardi nel 2009, più 4%, e questo porta appunto all'accelerazione e ha portato il rapporto tra spesa pensionistica e PIL al 15,5%. Certo, poi se si va a vedere a quanto ammontano gli assegni pensionistici, si scopre che un assegno su due non raggiunge 1000 euro e quindi siamo a un livello di soglia di quasi vicino alla soglia di povertà. Praticamente le pensioni sotto i 1000 euro sono il 50% di quelle erogate e poi ce ne sono invece un 13% che hanno più di 2000 euro. Complessivamente poi le donne ricevono meno degli uomini, il 27% delle pensionate incassa ogni mese meno di 500 euro. E allora ne parliamo, poi sentiamo anche alcuni interventi di questa mattina nel programma 9 in punto e mi riferisco a Antonio Mastropasqua che è presidente dell'INPS, anche Giuliano Cazzola è intervenuto e Alberto Brambile, però vorrei ringraziare per averci raggiunto in collegamento la professoressa Elsa Fornero che editorialista del Sole 24 Ore proprio in materia pensionistica, nonché docente di economia politica all'Università di Torino. Buonasera professoressa. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Poi sentiremo anche che cosa hanno detto altri suoi, alcuni sono colleghi, altri no. Ma insomma, per far capire a tutti, questa gobba che si avvicina, il picco che si avvicina, invece che il 2035 al 2010 addirittura, praticamente un avvicinamento di un bel po' di anni, deve preoccuparci oppure tanto, visto che è una gobba, prima o poi arriva e poi inizia la discesa, detto in maniera un po' brutale? Sì, bisogna spiegarla. La gobba intanto si riferisce all'andamento di una grandezza che è la spesa pensionistica in rapporto a quanto il paese produce. Questo andamento crescente e poi decrescente che in effetti descrive la gobba ha essenzialmente due cause o due fattori che stanno dietro questa dinamica. Uno è l'invecchiamento della popolazione. Con l'invecchiamento della popolazione la spesa pensionistica tende a crescere e quindi questo fattore dovrebbe far sì che la spesa salga sempre. L'altro invece sono le riforme che sono state fatte e che cominciano a mordere sulla spesa nel senso di una diminuzione. Allora l'idea era, dietro questi fattori, che l'aumento della fetta di popolazione anziana fa crescere la spesa, ma il fatto che le riforme tardino il pensionamento delle persone, cioè inducano le persone ad andare in pensione più tardi e tendano a ridurre gli importi alle stesse età a cui si andava in pensione prima e quindi facciano sì che gli importi possano essere mantenuti soltanto se si continua a lavorare, questi due fattori agiscono in maniera contrastante e quindi prima pesa l'invecchiamento, poi mordono le riforme e quindi la spesa scende. Su questo si aggiunge la crisi indubbiamente fa un effetto di aumento della spesa in rapporto al PIL perché fa scendere il denominatore e quindi da questo quadro complesso emerge che cosa, quale indicazione. Io direi in termini di riforme bisogna tranquillizzare gli italiani, nessun governo, questo o quello futuro, dovrà ancora mettere mano alla spesa pensionistica, le persone in Italia vanno in pensione già a età abbastanza elevate nella media europea e ci andranno sempre più in ritardo perché si accorgeranno che gli importi dovuti alle pensioni contributive saranno bassi, quindi le nostre riforme sono già state abbastanza severe e che non possono queste riforme tenere a bada l'onda d'urto dell'invecchiamento demografico. E del calo del PIL anche, perché se non avessimo avuto diciamo, e del calo del PIL. Un 2008, questo... un 2009 come quello che abbiamo registrato, forse anche la proporzione tra spesa pensionistica e PIL sarebbe stata più bassa e non avrebbe raggiunto il 15%. Sicuramente se noi avessimo una crescita diciamo dell'1-2%, che già è una crescita moderata, la spesa non avrebbe raggiunto o non raggiungerebbe in tempi brevi quel 15,5, che è un rapporto in Europa abbastanza elevato. Ma vale la solita regola: se il PIL non cresce, cioè se il paese non riesce a produrre ricchezza, è difficile che le pensioni possano, quelle per chi le sta ancora accumulando, essere ricche, e nel frattempo, siccome non si possono ridurre le pensioni di quelli che già sono in pensione, la spesa indubbiamente cresce, quindi è una dinamica purtroppo infelice che fa male al paese, ma sulla quale non è possibile fare, soprattutto nel breve termine, niente, e meno che mai niente che riguardi in particolare le pensioni. La cosa che bisognerebbe fare è far crescere di più l'economia. E magari un po' di lotta all'evasione, visto che poi ne parliamo. Però, professoressa Fornero, mi interessa quanto lei, prima di salutarla, ha ricordato, cioè la gobba, ossia il picco, è stato anticipato. E infatti sopra il 15% ci siamo arrivati nel 2010, poi sarà una gobba un po' più piatta, una specie di altopiano, e si arriverà, secondo le previsioni, al 16% del PIL nel 2035, e poi scenderà un po' più tardi, cioè doveva scendere nel 2050 a tornare sotto il 14%, arriveremo sotto il 14% del PIL al 2060. Però lei dice, attenzione, che c'è stato un anticipo, ma non ci sarà bisogno, è una gobba sotto controllo, posso dire così? Io direi senz'altro di sì, guardi che ci sono ancora, lei ricordava prima gli importi delle pensioni, anche se la spesa aggregata, cioè la spesa nel suo complesso è alta, i pensionati non possono, anzi la stragrande maggioranza dei pensionati non possono certo scialacquare con i loro importi pensionistici, e quindi siccome certo ci possono ancora fare cose che riguardano i pochi privilegiati che hanno pensioni molto elevate, queste cose non incidono molto sull'andamento della spesa complessiva, ma hanno un valore segnaletico, un valore emblematico molto forte. Quindi siccome di privilegi questo paese ne ha ancora tanti, magari quello che si potrebbe fare è dare una sforbiciatina ai privilegi pensionistici che ancora ci sono. Sì, e che riguardano più come abbastanza ricche. Sì, più come modello e come diciamo segnale che come reale così miglioramento della spesa pensionistica, però sono d'accordo, e poi vedo già sms sulle pensioni dei parlamentari, tanto sapevo che arrivavano, per carità, i segnali devono avere anche... L'esempio conta sempre, sono d'accordo con lei, poi i numeri sono un'altra cosa, però l'importante è ricordare sia che nel 2010, complice anche la crisi, è passata una riforma della parità pensionistica per le donne, che magari in altri anni, io lì sono d'accordo con il ministro Tremonti, avrebbe scatenato manifestazioni, scioperi, la crisi ha fatto la paura fa 90, e in questo caso... Sì. Ha fatto digerire un innalzamento dell'età pensionabile per le donne che in altre situazioni avrebbe creato più di un mal di pancia. Sì, è però che le riforme anche precedenti ci mettono in una condizione in cui sì, la spesa sarà 15% fino al 16% nel periodo 2010-2040, però non c'è motivo per andare a toccare le pensioni, andare a inasprire ancora di più le pensioni, anche perché la dinamica che lei ricordava obiettivamente difficilmente contestabile, cioè quando tu dalla pensione hai il 70-60% dell'ultimo stipendio tendi a stare al lavoro un po' più a lungo, se ti ci fanno stare, ecco perché. E non ci saranno questi tassi così alti, la gente si accorgerà che c'è meno e quindi sarà indotta, perché le persone poi i conti li sanno fare, sarà indotta purtroppo a lavorare. Il nostro problema non è che la gente vuole andare in pensione troppo presto, il nostro problema è che non sembra esserci sufficiente lavoro per giovani e anziani, questo equilibrio tra le generazioni e noi fatichiamo a raggiungerlo, anzi ce ne scostiamo sempre di più, quindi e poi bisognerebbe anche essere meno schizofrenici, qualche volta si dice bisogna che la gente lavori di più e poi si dice ah, no, mandiamoli in pensione perché sennò Ecco, se no non c'è lavoro. Sì, ecco, adesso, coerenza. Apriremo un altro tema, ma è vero che molte volte le ristrutturazioni aziendali, come si chiamano in gergo, ossia il taglio sui costi, significa soprattutto prepensionamenti. Allora poi lì è difficile anche, o scivoli verso il pensionamento, è difficile anche dire aumenta l'età pensionabile se poi la grande sforbiciata arriva sempre su questo. Comunque era importante il suo messaggio rassicurante, grazie alla professoressa Elsa Fornero, editorialista del Sole 24 Ore e docente appunto all'Università di Torino. E devo dire che ha escluso anche il presidente dell'INPS, Antonio Mastropasqua, questa mattina nel programma 9 in punto, qui a Radio 24, ha escluso che questo aumento, questa anticipazione della gobba, non è un aumento, perché il rapporto resterà 14-16% del PIL, è solo che arriva prima. Beh, dicevo, lo stesso Mastropasqua, presidente dell'INPS, ha escluso la necessità di andare a toccare le pensioni e quindi che vi possa essere un problema per la tenuta dei conti pubblici. La tenuta dei conti dell'istituto è fuor di dubbio e l'intervento fatto nella norma nel 122 di fine luglio 2010 ha messo fine a questo cantiere aperto con la Dini e che ha visto l'Italia essere oggi per la prima volta qualcosa di cui andare fiero qualche volta in Europa, essere il primo paese che ha correlato l'età pensionabile e l'aspettativa di vita, quindi qualcosa di coraggioso, di automatico, e anche l'automatismo è importante perché il recente o il passato ci hanno insegnato che estenuanti trattative tra parti diverse tra di loro aveva sempre portato poi a un congelamento, a un ripensamento. L'automatismo è quello che tutti i mercati volevano, ma credo soprattutto i pensionati volessero. Abbiamo delle tabelle di simulazioni, tra 10 anni verosimilmente ci saranno 6-7 mesi in più di vita lavorativa e questo avrà un'influenza, tornando all'articolo di domenica, anche sulle pensioni, perché lavorare di più significa versare più contributi nel sistema contributivo verso il quale oramai siamo entrati pienamente. Lavorare di più significa avere più contributi e avere poi una vita pensionata da pensionato più ovviamente più ricca. Così il presidente dell'INPS e devo dire che, così chiudiamo il trittico, anche il presidente del nucleo di valutazione sulla spesa previdenziale, che è Alberto Brambilla, ha escluso problemi di tenuta del sistema. Questo lo dico perché sennò poi sulla gobba pensionistica si fanno speculazioni, si è in vacanza, tranquilli, non c'è motivo, siamo a 3 interventi su 3, per ritenere che anche l'anticipazione della gobba debba portare a qualche ritocco sulla struttura pensionistica. Comunque, Alberto Brambilla, presidente del nucleo di valutazione sulla spesa previdenziale. Tanto escludiamo qualsiasi nuovo provvedimento in ambito previdenziale. I due interventi, i due stabilizzatori economici, che sono la revisione triennale dei coefficienti di trasformazione, sono quelli che poi determineranno la pensione, e l'adeguamento della speranza di vita all'età di pensionamento, o meglio l'età di pensionamento alla speranza di vita, tengono il sistema in equilibrio. Quello che io ho voluto dire soltanto è che purtroppo non c'è riforma in nessuna parte del mondo che possa essere sostenibile se l'economia non si sviluppa e soprattutto se, io ho voluto dire nell'articolo, se l'economia non è onesta. Non è onesta nel senso che purtroppo risulta incomprensibile come il 25% dei contribuenti italiani dichiari pressoché zero al fisco e il 50% dichiari molto poco. Adesso il meteo, la pubblicità e poi gli altri temi a partire dai mercati e la lotta all'evasione fiscale. Ripeto, è anche il racconto di quello che hanno scoperto in queste settimane, girando per le discoteche, i bar, gli stabilimenti balneari, gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non capisco alcune obiezioni che arrivano al 349-238-6666 sul tema delle pensioni. Nessuno ha mai detto che la vita da pensionato sia più ricca, anzi si è detto il contrario, che proprio perché le pensioni saranno sempre più di fatto contributive, la bella abitudine di avere una pensione che era molto vicina, era quasi identica all'ultimo salario, è scomparsa, scomparirà sempre di più, per cui la tendenza sarà, se possibile, di restare al lavoro un po' più a lungo come tendenza volontaria. Il problema è poi vedere se questo non confligge con gli interessi dell'azienda o del datore di lavoro, che magari ha bisogno, come in questi ultimi anni, di ristrutturare prepensionando, cercando gli scivoli cosiddetti verso l'uscita dal rapporto contrattuale. Comunque, adesso la borsa buona, oggi la seconda giornata della settimana. Buona anche la chiusura per Milano, più 1,3%, la migliore Parigi più 1,80%, Francoforte più 1,60%, Londra più 1,40%, l'America più 1,40%, l'euro vicino a quota 1,29%. In sostanza sono calati tutti i rendimenti dei, come spiegavamo prima, dei paesi periferici dell'euro, e quindi Spagna, Portogallo, Irlanda, e soprattutto questi tre. Perché? Perché è andata bene l'asta delle obbligazioni irlandesi, quindi il mercato ha preso atto che non c'è tensione, che non c'è problema a finanziare il debito irlandese, che l'Irlanda è uno di questi paesi considerati più a rischio. E allora, Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, è questo il motivo o mi sono perso qualcos'altro? Allora, le notizie positive oggi sono arrivate da più fronti. Da una parte, quindi, il buon esito dell'asta sui titoli di Stato in... Anche spagnoli, dimenticavo. In Irlanda e Spagna, infatti. E dall'altra parte poi sono arrivati dei conti societari positivi dagli Stati Uniti, quindi Walmart e Home Depot, e alcuni dati macro americani pubblicati oggi, in particolare la produzione industriale che è cresciuta oltre l'1%, sì. E poi quindi i listini europei, che comunque hanno viaggiato in rialzo per tutta la seduta, hanno poi amplificato i guadagni, visto l'andamento positivo di Wall Street, che ora viaggia infatti in netto rialzo. Allora, premiato il settore delle costruzioni, quello più ciclico, anzi, per essere corretti, quello più anticiclico, però insomma oggi il dato è netto: i tracimenti più 4,60, Buzzi Unicem più 3,5, in pregilo più 2,60%. Sì, infatti il comparto costruzione ha già guadagnato oltre il 2%, ma già alla vigilia era stato bene intonato grazie soprattutto al balzo di ieri della tedesca Octif, che ha pubblicato i conti e incrementato le stime per il 2010. In particolare, per quanto riguarda Piazza Affari, oggi la migliore sul paniere principale è stata Italcementi, che quindi ha approfittato del rialzo del settore dopo, per recuperare terreno dopo aver toccato venerdì scorso i minimi storici. Ha continuato invece l'ascesa in pregiro, che ha guadagnato il 2,58%, beneficiando sempre dell'andamento positivo del settore, ma anche sempre delle attese per l'esito della gara per la costruzione dell'autostrada libica da 3 miliardi di dollari. E questa è una notizia ulteriore e aggiuntiva per far andare bene il titolo. Devo dire bene tutto il mercato, facciamo prima dire oggi per fortuna chi è andato male, e mi riferisco di pochissimo, Luxottica meno 0,50, Fondiaria invariata, migliori e peggiori invece Stefanel più 13,7, Le Camfin più 10,8, e invece tra i peggiori Zucchi sul risparmio non convertibile, vabbè, meno 4,40, Pininfarina dopo il botto che ha fatto in questi giorni, un po' di vente ci stanno tutte, meno 4,3%, Cell Therapeutics meno 3,5%, Class Editori meno 3%. Invece, nei settori e nei titoli più importanti, a maggiore capitalizzazione spicca anche ST Microelectronics più 2,80%, Lottomatica più 2,70%, Prysmian più 2,55%, Enel più 2,2% come Bulgari, Fiat più 1,90% come Saipem, e Autogrill più 1,80% come Finmeccanica, e Intesa San Paolo più 1,70% come Parmalat. 1,60% lo guadagna invece Mediaset. Tra l'altro notiamo anche, io commenterei Camfin, anche se è un titolo più sottile, e poi ST Microelectronics. Sì, allora, per quanto riguarda Camfin, ora le azioni hanno recuperato le perdite dopo aver ceduto oltre l'8,6% dalla chiusura di lunedì 9 agosto. In particolare oggi sono stati molto forti gli scambi, considerando che sono passati di mano 3,8 milioni di pezzi contro una media giornaliera dell'ultimo mese di 1,2 milioni. Allora, secondo gli operatori, in assenza di notizie ufficiali sulla società, il titolo potrebbe essere oggetto delle tipiche speculazioni estive, all'indomani però del forte balzo registrato dalla partecipata Pirelli. Ieri infatti le azioni della Bicocca hanno guadagnato terreno beneficiando di un report positivo da parte degli analisti di HSBC, che avevano alzato il prezzo obiettivo sul titolo e confermato il giudizio. Quindi alcuni operatori parlano anche per Canfin di un effetto a scoppio ritardato, ma in realtà può darsi che a influire sul titolo siano state le speculazioni estive. Ancora Telecom, volete sapere, su Telecom un po' più deboluce, più 0,20%, qualche presa di beneficio. Tenaris, anche lì chiedete di Tenaris. Tenaris sta recuperando, lì vi ho ben visto, dopo diciamo, il minimo dello scorso 11 agosto, oggi più 2,5%, no? Infatti della quarta seduta consecutiva di rialzo per il titolo, che aveva toccato appunto i minimi l'11 agosto, livelli che il titolo non vedeva da dicembre 2009. A contribuire oggi al recupero di Tenaris è stato anche il rialzo delle quotazioni del petrolio, che a New York ha aperto in territorio positivo dopo 5 sedute consecutive di flessione, trainati in particolare dai buoni risultati societari e dalle attese relative a una diminuzione degli stock negli Stati Uniti. Ancora sui titoli, devo dire, Telecom, abbiamo detto Fiat oggi recupera 9,76 euro prezzo finale, ma qui c'è una notizia più che sul titolo Fiat, sulle immatricolazioni, che arriva dalla Francia. Sì, infatti, allora, da una parte il titolo ha beneficiato del buon andamento del comparto auto, che è cresciuto di oltre il 2%, dall'altra appunto dalle indiscrezioni relative ai dati sulle immatricolazioni che verranno pubblicati a settembre. Secondo la stampa francese, infatti, le immatricolazioni a luglio in Europa hanno mostrato un calo del 17% circa, una flessione che è inferiore alle attese, che si collocano intorno a un calo del 20-23% per il mercato e del 30-35% per Fiat. Inoltre sono arrivate anche delle stime positive sul settore auto da parte degli operatori, che ritengono che il secondo trimestre del 2010 abbia segnato la stagione delle trimestrali più sorprendente per le società del comparto auto. Grazie Livia Zancani, Radio Colle Sole 24 Ore, il meteo, il traffico, scusatemi, la pubblicità e poi l'evasione fiscale lungo la spiaggia, tra gli ombrelloni, tra le discoteche, insomma quello che hanno scoperto gli ispettori dell'Agenzia delle Entrate, in qualche modo anche, anzi, camuffandosi da bagnanti con l'infradito e le Bermuda. 349-238-6666 per gli sms. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio cioccolata fondana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che butto dentro la fondana è tuo paese. Si capisce? Questa è la famosa fondana di Treni. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette? Cavaliere ufficiale Antonio Treni. Complimenti! Decio cavallo. Come? Decio cavallo. Avevo capito cacio cavallo. Io un po' paesà. È un buon business. Ottimo, ottimo. I soldi nella fondana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ci vogliono molto staff, cioè molti impiegati per mandare avanti questa fondana. Basta uno solo. Solo. Chiudo l'acqua, chiudo la fondana, piglio i soldi, apro la fondana e tu. Senti, io sono italiano oriundo. Ah. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business. E perché non ti compri la fondana mia? E tu te la vendi? Eh sì. Allora la compro io. Quanto costa la fondana? Con 10 milioni della casa. Ok, domani vieni al consulato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money, ok. E non mi dai una caparra? Quale caparra? Bravo Fess, se nel frattempo viene qualcuno che se lo vuol comprare, che fai? Io aspetto a te. Giusto, e quanto? Mezzo milione. Ah no, sono troppo mezzo milione, ti do 100.000 lire. Ma che sei pazzo? Oh, ma che in America così fanno gli affari? Allora, un omaggio storico alla fantasia degli italiani, mettiamola così, anche se il tema sarebbe ben più serio e ben più da farci arrabbiare. nessuno vuole dire che l'evasione sia solo lì, ma insomma su 120 miliardi che lo Stato non incassa di tra IRPEF, IRES, IVA e IRAP, ci sono anche quelli che non incassa durante l'estate. L'Agenzia delle Entrate ha calcolato che il sommerso del settore, andando buoni, stando cauti, ammonti ad almeno 1 miliardo di euro. E stiamo parlando degli stabilimenti balneari, dei gestori di camping, tutti gli alberghi, ristoranti e altri esercizi commerciali, le discoteche, che vivono soprattutto d'estate. Tra l'altro già gli stabilimenti balneari pagano canoni in media al 5% del fatturato, mentre nelle altre attività commerciali l'affitto dei locali incide per il 35-40%. Però pensate che nel 2008 i 25.000 concessionari di stabilimenti balneari in Italia hanno versato in tutto 103 milioni di euro per quello che riguarda il canone, contro i 280 milioni di euro dovuti. E quindi già il canone si paga poco. Quanto dichiarano? Beh, il reddito medio di chi ha uno stabilimento balneare in questo paese è di 10.900 euro l'anno, che sono 800 euro lordi al mese. Pochino, eh? O meglio, ci dicano dove stanno, che ci andiamo anche noi in vacanza lì. Comunque, visto quello che costa un lettino, un ombrellone e una sdraio, Luigi Magistro, direttore accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, di nuovo con noi. Buonasera. Buonasera a lei e a chi ci ascolta. Allora, la stiamo cercando di mettere in maniera da non creare, diciamo così, da non generare l'utilizzo di Malox in chi ci ascolta ed è un contribuente onesto, però il dato è serissimo. Voi, cioè, ci sono delle cose che a me fanno ridere, perché avete scoperto anche che ci sono stabilimenti balneari, adesso sto cercando la nota perché era bellissima, in cui nel Livornese, tre esercizi nel Livornese che dichiaravano di più come introito a ottobre rispetto, in autunno, novembre, ottobre rispetto a giugno, luglio, agosto. Io capisco che il mare d'inverno abbia un suo fascino, però insomma, ecco, ci può raccontare come avete operato e come state operando questi controlli? Perché ci giunge voce che addirittura i suoi ispettori si travestano da turista infradito, li avete muniti di infradito e pantaloncini? Beh sì, insomma, può capitare anche questo. Diciamo che in questo momento dell'anno una parte dell'attività di controllo si sta concentrando proprio su queste attività del comparto turistico, ecco, per definirlo un po' nel suo complesso, perché ovviamente è in questo momento che bisogna intervenire anche per capire bene quali sono le effettive potenzialità delle varie attività, vuoi stabilimenti piuttosto che alberghi, piuttosto che camping. Quindi il momento è particolarmente propizio. Qualche volta, per ottenere dei dati diciamo così un po' a sorpresa anche, utilizzano i nostri ispettori anche qualche piccolo stratagemma, tipo quello appunto di confondersi tra la clientela per capire effettivamente quali sono le potenzialità, quelle che poi alla fine spesso vengono nascoste, come faceva notare anche lei prima. Adesso non voglio sapere qual è lo stratagemma che avete utilizzato per andare in un nightclub in Friuli Venezia Giulia dove c'erano 32 ballerine di lap dance, e non so quale sia il travestimento più corretto per infiltrarsi lì, ma la cosa interessante è che tutte le 32, allora, in questo nightclub non c'era nemmeno il certificato di agibilità, non c'era nessuna licenza, autorizzazione, e guarda caso tutte le 32 ballerine di lap dance erano state assunte il giorno stesso, perché in altri casi addirittura i buttafuori, che quando scoprono che uno è dell'agenzia delle entrate, dicono: ma io sono qua come amico del titolare, perché giustamente non è meglio da fare la sera, e vale anche per camerieri, baristi, tutti amici del titolare, che evidentemente gode di numerose amicizie. Poi casi incredibili, a Caserta c'era uno stabilimento balneare che dichiarava una perdita di 4.000 euro e appunto guadagnava qualche centinaio di euro solo in autunno. E poi insomma le vostre missioni sulle coste marchigiane, addirittura stabilimenti balneari che dicono di non avere ombrelloni. Ora io capisco tutto, ma c'è la fantasia, altro che Totò e la Fontana di Trevi. Qui c'è lo stabilimento balneare senza ombrelloni, senza lettini, ci si chiede che cosa sia. Mi può dire le infrazioni più comuni che voi accertate? Cioè è l'assenza di licenza oppure una dichiarazione in qualche modo mendace? Beh, guardi, la dichiarazione mendace è la più classica delle violazioni. Dobbiamo tenere presente che parliamo tendenzialmente di microattività, no? Che tra l'altro questo è anche uno un po' dei motivi per i quali abbiamo un'evasione così diffusa su questo mondo. Proprio perché è fatto di tantissime piccole attività, questa è proprio una caratteristica peculiare del nostro paese. Noi abbiamo un numero di partite IVA in generale enormemente superiore a quello di altri paesi, questo rende molto più difficile anche il controllo, come si può ben comprendere, perché ci troviamo di fronte a decine di migliaia di soggetti e chiaramente anche l'attività di prevenzione non è facile. Ecco, quindi la infrazione tipica appunto è il non registrare i corrispettivi che effettivamente si conseguono. Questo tipo di infrazione in parte, proprio perché siamo di fronte a tantissimi contribuenti, cerchiamo un po' di prevenirla con gli studi di settore, però probabilmente, ecco, come faceva notare lei, molte volte nascondono anche i beni strumentali, tipo gli ombrelloni per lo stabilimento, proprio per ingannare il fisco anche quando agisce con gli studi di settore. E quindi dobbiamo andare in loco a fare dei rilevamenti. Poi ovviamente sì, che possono avere anche un aspetto boccaccesco, perché un vostro funzionario della direzione provinciale di Ravenna, siccome era incaricato di piantonare in incognito il botteghino di una discoteca per valutarne il volume d'affari, è stato avvicinato dalla detta alla cassa, convinta che il giovane, evidentemente insomma, di bell'aspetto, ci stesse provando. Poi ha scoperto che così no, vabbè, insomma, almeno qualcosa di, può capitare. E per quello che riguarda invece gli stabilimenti più grandi, ci chiedono gli ascoltatori, o gli alberghi più grandi, perché lei dice molte sono attività piccole che si svolgono chiaramente con la stagionalità dell'estate, però voglio dire anche le dimensioni contano nei vostri accertamenti. Ci sono stabilimenti in cui è difficile accettare una dichiarazione di 10.000 euro lordi l'anno, no? Cioè io capisco il baracchino, che apre per vendere granite, nessuno vuole accanirsi su questo, ma insomma quando tu hai un ristorante, piscine, campi da tennis, l'animazione lì? No, indubbiamente, ecco, diciamo che però 10.000 euro, come ricordava anche lei, è la media, no? Quindi, certo. Chiaramente vuol dire che ci sono anche molti che dichiarano meno, il che è ancora più preoccupante, però ci sono comunque molti esercizi che dichiarano di più. Al crescere della dimensione la possibilità di controllo è maggiore, diciamo, perché i soggetti sono di meno e il collegamento tra struttura produttiva e il dichiarato è più facile da cogliere, mentre di fronte alle microattività, come spiegavo prima, è più complicato, bisogna sviluppare azioni tipo quelle che stiamo facendo in questo periodo, abbiamo tutta l'intenzione di farlo, continueremo. Oltre al turismo ci dedicheremo comunque a tutto quello che può generare evasione, perché siamo convinti che ormai non è più tempo di tollerare situazioni di questo genere. Ecco, un'ultima domanda, ho un minuto scarso. Quanto è diffuso invece l'abitudine di, quando fate gli studi di settore, di avere rimanenze finali insomma incredibili? Cioè c'è un caso scovato sempre da voi a Pescara. Gli ispettori vostri hanno chiesto a un ristorante perché fra le rimanenze finali ci fossero 500 kg di pesce e 4.000 kg di farina. Risposta: perché al pizzaiolo non piaceva, li buttavamo via. Cioè questo ristorante ha sostenuto che buttava via 500 kg di pesce e 4.000 kg di farina nei rifiuti perché non piacevano al pizzaiolo. Ora io capisco il potere del pizzaiolo, ma insomma questa tecnica quanto è usata? Guardi, è usata abbastanza, le rimanenze sono normalmente un po' una delle voci che viene più utilizzata per far quadrare i conti con gli studi di settore. Comunque noi stiamo da tempo facendo delle campagne anche su questo tipo di situazioni, ricordo, facciamo ogni anno più di 300.000 comunicazioni ai contribuenti che sono in odore di, noi lo definiamo, taroccamento dei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, tra cui le rimanenze sono uno degli evergreen, per così dire. Sì, oppure abbiamo un pizzaiolo che ha un potere incredibile. Comunque,